Storie italiane. Giorinda e Gioringhello. C'era una volta un vecchio castello nel cuore di una foresta molto grande e fitta. Là abitava tutta sola una vecchia strega molto potente dai mistici poteri magici. Di giorno si trasformava in una civetta, oppure, grazie alla magia, in un gatto nero. Mentre la sera la strega riprendeva il suo aspetto umano. Oh, come vorrei potermi liberare di queste rughe e dei miei capelli grigi. Ma lei non poteva. La strega era una vecchia burbera che stava a guardia del suo amato e grande castello. Se qualcuno arrivava a 100 passi dal castello, era costretto a fermarsi e non poteva più muoversi finché lei con la sua magia non lo liberava. Oh, vecchia strega, per favore liberami! Non chiamarmi vecchia! Ti lascerò andare solo se prometti di non tornare mai più. Mi dispiace molto, ti prometto che non tornerò mai più nel castello. Ma se una fanciulla entrava nel suo regno, la vecchia la trasformava in un uccello e la rinchiudeva in una gabbia che metteva in una delle stanze del castello. Di quelle gabbie ne aveva ben 700 con dentro uccelli tanto rari. Ah, la mia bellissima collezione di uccelli, che spettacolo! Tra questi c'era una giovane fanciulla che si chiamava Giorinda. Era promessa in sposa ad un giovane bravo e leggiadro di nome Gioringhello. Ah, questi boschi sono così belli! Ah, che pace! Sì, mia cara, è vero. Ma dobbiamo stare molto attenti a non avvicinarci troppo al castello della strega. Non avrai mica paura della vecchia strega! Giorinda correva nei boschi, rideva e scherzava con Gioringhello. Raggiunsero la cima di una collina. Era una bella serata. Gli ultimi raggi del sole brillavano al tramonto, attraverso i lunghi rami degli alberi verdeggianti del bosco. Sia le tortore che le colombe cantavano dalle alte cime delle betulle. Se questo non è il paradiso, allora che cos'è? Giorinda si sedette per riprendere fiato. Gioringhello si sedette al suo fianco. Entrambi si sentivano tristi. Gioringhello, non mi sento molto bene. Neanch'io. Mi sento come se avessi la sensazione di perderti. Torniamo a casa. I due innamorati si guardarono intorno. Si erano persi e non sapevano come ritrovare la via di casa. Oh, mia cara, ci siamo persi! Il sole era già tramontato per metà dietro al monte. Il giovane guardò fra i cespugli e vide in prossimità le vecchie mura del castello dove abitava la vecchia e potente strega. A quella vista si spaventò a morte. Giorinda iniziò a cantare. Questa è la voce della mia Giorinda. Il mio uccellino dal rosso anellino canta lamenti, lamenti, predice alla colomba la morte tra i tormenti. Lamenti, lamenti. Gioringhello la guardò attentamente. Giorinda si era mutata in un usignolo che cantava. Tutto ad un tratto una civetta dagli occhi ardenti le volò attorno 3 volte e per 3 volte gridò: ah! Cara, io ti salverò! Gioringhello non riusciva a muoversi o a gridare. Cos'è successo a me e alla mia amata Giorinda? Non c'è via di scampo da questa situazione. È orribile! Ora il sole era tramontato. La civetta volò in un cespuglio e subito dopo ne venne fuori una vecchia strega con gli occhi lucenti e dall'aspetto tenebroso. Ah! Oh! C'è un altro usignolo per la mia collezione. Lei borbottò qualcosa, poi afferrò l'usignolo e lo portò via. Gioringhello non poteva dire nulla, non poteva muoversi. L'usignolo era scomparso. Finalmente la vecchia ritornò e disse con voce roca: finché il prigioniero intorno a me risiederà per sempre, lì rimarrà. Oh sì, che rimarrà! Quando il mio incantesimo una fanciulla legherà, il legame del prigioniero presto svanirà! All'improvviso, Gioringhello si ritrovò libero. Poi cadde in ginocchio davanti alla strega e la pregò di restituirgli la sua cara e amata Giorinda. Oh, grazie, cara vecchia strega! Ora, per favore, libera anche la mia Giorinda dall'incantesimo! Mai! non la vedrai mai più. Ma io non potrò vivere senza di lei, la mia amata. Per favore, ti supplico. La strega rimase indifferente alle sue suppliche. Si limitò a ridere di lui e se ne andò. Gioringhello invano pregava, piangeva e si addolorava. Ohimè, cosa faccio adesso? Come posso tornare a casa senza la mia dolce amata Giorinda? Gioringhello se ne andò e giunse in un piccolo villaggio sconosciuto, dove fece il guardiano di pecore per tanto, tanto tempo. Spesso si aggirava intorno alle mura che cingevano il castello, senza tuttavia avvicinarsi troppo. Invano sentiva e vedeva l'amata Giorinda. Non c'è nessuna speranza per me. Infine, una notte, sognò di trovare un fiore di color porpora, con in mezzo una perla bella grossa. Egli colse il fiore e andò al castello, e tutto ciò che toccava con il magico fiore si liberava dall'incantesimo invocato. Sognò inoltre che in quel modo era riuscito a riavere la sua amata Giorinda. La mattina seguente, quando si svegliò, incominciò a cercare quel fiore. Il mio sogno ha sicuramente un significato. Forse potrò salvare la mia amata Giorinda. Così cominciò a cercare oltre la collina quel fiore incantato. Per 8 lunghi giorni lo cercò invano, ma il 9° giorno trovò il bel fiore color porpora. Nel mezzo c'era una grande goccia di rugiada, grande come una perla preziosa. Eccoti finalmente! Mi aiuterai a salvare la mia Giorinda! Portò con sé il fiore giorno e notte, camminò a lungo, finché giunse al castello. Là non fu più immobilizzato dall'incantesimo della vecchia strega, ma proseguì fino a raggiungere il cancello del grande castello che lo separava dalla sua amata. Gioringhello ne fu estremamente felice. Questo fiore è davvero magico! Giorinda, aspettami! Quindi toccò il cancello del fiore e magicamente si spalancò. Così entrò nel cortile e udì in lontananza il dolce canto di tanti uccellini. Giorinda deve essere qui! Continuò a camminare. Alla fine arrivò nella stanza in cui si trovava la strega con i suoi 700 uccelli che cantavano rinchiusi nelle 700 gabbie. Ma cosa? Guarda quanti uccellini! Quando la strega vide Gioringhello, si arrabbiò molto. Urlò con tono aspro. Come osi venire nel mio castello? Non ti ho detto di non tornare mai più? Ora pagherai con la tua misera vita. Corse ad attaccarlo, ma non ci riuscì. Non poteva avvicinarsi a lui, perché il fiore che teneva in mano lo proteggeva con la sua magia. Infine, guardò dentro le gabbie, ma ahimè, c'erano troppi uccellini. Dove sarà la mia Giorinda? Mentre stava pensando a cosa fare, vide che la strega prese con sé una delle gabbie e stava facendo del suo meglio per uscire dalla porta e scappare con un uccellino. Ah, è lei, eccola! Le corse dietro, toccò la gabbia con il fiore e Giorinda si trasformò davanti a lui. Lei gettò le braccia attorno al collo di Gioringhello. No! Grazie al magico fiore, toccò tutti gli altri uccelli, così che tutte ripresero la loro forma umana. Oh, sì! Sì! Grazie, grazie! No! No! No! I miei uccelli! Oh, no! In seguito, Gioringhello colpì con la goccia di rugiada la vecchia strega. Con loro stupore, grazie alla magia, si trasformò in un piccolo usignolo. Giorinda prese velocemente l'uccellino e lo chiuse dentro una gabbia. Questa è la fine della strega. Vieni, Giorinda, amore mio. Torniamo a casa. Il nostro eroe e Giorinda tornarono a casa, si sposarono e vissero felici e contenti. La stessa sorte toccò ai tanti ragazzi le cui fanciulle erano state costrette a cantare nelle vecchie gabbie della strega.